Pappagallo. Carlo, ci sei ancora? E chi è questo segnale? Papà lì, ci sei? Brecco, Brecco? Avanti il break! Ciao Arturo, sto facendo una prova dalla macchina, vuoi mi ascolti? Dove sei? Plaza Mona! K5 e Radio 5, come mi ascolti tu? 5 Radio 5, e tu sei basso lo stesso? Dipende dove sei, magari si mette agli alberi. Non c'è altro nessuno qua? No, c'era Gianni, c'era, ma gli ha squillato il telefono. Gappa di positivo, dai, già va bene, ok. Vabbè, non c'era anche coso, va. Natalino non c'è. Ehi, 95 Radio 5. Natalino, sto arrivando io, sono lì alla rotonda, ho cambiato antenna, gli ho messo quella lunga, mi ascolti bene, sì. Adesso 95 Radio 5 sta arrivando qua. Grazie. Gappa di positivo, grazie, ok, dai, adesso me ne salgo. Ciao, ciao, dopo. Ciao, ciao. Gappa, magari l'ha messo un po' coperto, capito? Qua cannuata questa cosa. Che ragione. Ui ui ui. Ho fatto un po' di modifiche e mi sono uscite bene. E però non va bene, stai copiando tu con l'altra, stai copiando a me. Non ho capito, c'è la TV che ti so far zappa. Ho detto che stai copiando a me con Superstar. Sì, anche bello forte è andato prima, però questo qua c'ha più ricezione, non venuto da qua. Ehi, cazzo. Molto meglio. Manca paragone, Ghito. Bisogna stare meglio così. Realmente. Caffa, devo girare quel caliper, fino a corsa. Non il caliper. Perché vabbè, è un po' spostato, però funziona una meraviglia. Sì, ho capito. Ehi, Concè, dimmi Concè. No, stava parlando con me, volevo sapere una cosa. Ok. Attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Avanti. Ciao Antonio, ciao Natalino. Ciao Antonio, tutto leccato, vedi. Ah, che bellino. Bel segnale. Cosa? Ha detto c'è un bel segnale. No, guarda adesso. Hola, aumentato il segnale. 920 Radio 5. Mentre invece è così, che segnale è? Brillante. Picchi positivi. Mimino, ci gommino lì. C'hai che mangiare meno salsiccia tu. Così non so di vedere. Ciao, ma tu è. Ciao. Ciao. Vabbè, allora, io ti sento molto meglio con questa radio. Ma che c'è? Che Gianni qua? Vabbè, Ginko! Ehi, dai, sono andato fatto con un computer, lo sto sistemando. Sto cambiando la pasta di raffreddamento. Dai, riprendo subito, Luca, ma sei al monte? Sempre al monte, sì. Passo? Adesso. Poi, domani. Passa, su a casa la mamma, Ehi, che roba, vabbè, già vedo dove è l'antenna più o meno, dai. Poi ti chiamo. E sai dov'è il loop di Via Varghiotti? Dove c'è la loop? Poi facciamo i vaccini, sono di fronte io. Loop? Cioè? Dove facciamo i vaccini da Varghiotti? Non so se li hai fatti lì, io li ho fatti lì. Tu dove li hai fatti? Ah, ho capito, sì. Tu sei di fronte. Ehi. Anche lì i vaccini l'ho fatto anch'io, l'ho fatto. Dai, chiudo, sì. Ciao a tutti, sono uscito. Ciao, Tony, ciao. Ciao Tony, ce la risentiamo. Una campanone, Natali. Qui c'è un apparecchio serio. Superstar di Lucio. Ma tutta la cosa cromata, ragazzi, è bellissimo questo apparecchio. E come il mio, uguale al mio. Penso di sì. Solo che il mio è chiuso, non c'ha canali, non c'è io. E Mario Sara solo, perché ho omologato. C'ha le bande laterali, c'ha tutto, però c'ha 40 canali solo. Attento Natalino Alfa 1, ascolti questa piccola modulazione, cambio passo e chiudo. Già lo ascolto, a lì. Io sto uscendo dalla macchina con l'antennino di gomma, cambio. Già lo so. Andi sei. Cosa? Gappa, in che zona sei? Pio Pio sta arrivando qua. Poca Plaza Mona, Gappa. Gappa, già ti sento lo stesso. Probabilmente sei in mezzo agli alberi. Pensavo che non mi sentivi, a tu. Gappa. Andare. macchina, cazzo, eccezionale, cazzo. C'è una ricezione. Questo è un apparecchio di gomma, quello che ho preso sardurino. È proprio un apparecchio di gomma, vedi quello che ha fatto il cingoma, non so se tu sei. Campa, ti attisento con un pezzo di gomma. Hai detto, ma sicuramente non mi ascoltano quelli, dai, perché è impossibile arrivare lì con questa antenna di gomma. Non so se ti ascolta, E Natalina ha detto che ti sto arrivando al cuore. Gaffa. Andiamo bene, andiamo. Che punto sei a Platamona, la rotonda? No, non sono proprio la rotonda, sono vicino alla Marina di Sorso quasi, dai. La Marina di Sorso, sì. Uno mi sta arrivando, però ti sento. Se l'avessi avuta sul tetto ti avrei sentito una bomba. Vabbè, riportate che mi sì. Sul tetto non ce l'ho. Ah, ci arrivo la Marina di Sorso, zio Fra. Ehi, ci arrivi di 9.20, 9.25, frate, a me come mi ascolti di cambio? Santiago 4, 5, sì, Fra, ma ti ascolto bene. 4, 5, vabbè, io sono coperto forse per quella zona tua, Luca, capito? Dopo non mettiamo più mezzo, vai, da parte. Che le chiede? Gabba, la notte, ma vedi come si deve, ragazzi. Ce l'hai anche tu, Lul, supportato. Ce l'ho da un po', il mio è un nuovo fiammante. Cavolo, anche questo, Così, comprato? No, l'avevo scambiato che volevo una radio così. Ha guardato quello là, più che volevo tramite il microfono, volevo una radio così. Capito? Ai. Si potrà provare a abbassare leggermente. Alla grande. Roger. Se non altro, anche le pizzate le abbiamo fatte anche noi, anche non da molto, le abbiamo fatte anche noi, due o tre le abbiamo fatte, siamo andati a mangiare la pizza tutti insieme, anche sto invecchiando, sto scherzando, ma le bugie dopo passano, piano piano passano, dai, e speriamo non ti passa quello delle donne. Sto scherzando. Avanti, Carlo, avanti. Sono rientrato, già ci sono. Ah, eccoti. Placido, avanti. Ho detto, quindi l'importante è che funzioni sempre il citofono, dai, per le donne. Mi siete sovramodulati. È importante che funzioni sempre il citofono. E se no basta cambiare la capsula. E Antonio c'è ancora? Eia. Tu adesso già arrivi meglio delle altre volte. Adesso sei tornato Antonio di una volta. Ma io dici cosa hai fatto, tanto siamo curiosi. Ma è truccato. Ma di trucchi per gioco. Ah, ecco, esce con più va. Non lo so. Com'è che non lo sai? Non dormi? Matto, ma è troneato. No, lui è a 5 watt. Allora c'è qualche cosa che lo aiuta. Secondo te? Dove tra poco fa tu mi hai detto che è staccato. Oh, ma anche l'antenna è alzata, no? Sempre quella, Mi ha Giovanni stanco, basso basso. Aspetta che sta parlando tu. Ciao Giovanni, ben sentito, dai. Sono in compagnia di Carlo, Antonio Bombolo, c'era Natalino, c'è anche Manuele, ma per chi vuoi. C'è tutto alzato, non si capisce cosa dici. Fai qualcosa, metta la radio, anche tu puisci bene e si scende male. E Santiago 4, mi qua. Santiago 4, la radio è tutta satura. No, non ne ho. Ne ho due, ma servono a me. No, sto dicendo, uno ce l'ho, che è quello piccolo che lo uso per la macchina, già lo sai. Quella che abbiamo misurato, tarato l'antenna tua. E l'altro è quello fisso che c'ho nella stazione, quello grande. Non ce l'hai quello ad aghi incrociati, scusa. E infatti è che te lo faccio in vano. Dopo se hai problemi già lo sai che come non ci sono problemi, se la devi misurare andiamo un attimo, lo misuriamo e poi me lo porto a casa. Perché non lo usi? L'avevo già tarata, l'avevamo, vabbè che è cambiato posto adesso. E già me l'hai detto, l'hai messa, ma la massa bene la fa, è raschiato bene sotto. È già tantino, io un'altra ce l'avevo con l'iniera attaccata in macchina. Basta farlo, vieni vicino a casa, lo facciamo con la strada che c'è in alto e lì è libero. No, adesso lo fa, adesso non si vede manco la prossima. Avanti Antu, poi fai girare, dai. Ehi, Kappa, chi è? Che non arriva qua. Franco California. Dove il campo è? Bravo, come sì. E mi pare che era la zona di Platamona, dai. Era la zona di Platamona. Carlo, riprendi. Già lo sentivo io, era un po' basso, ma magari era in movimento. E anch'io lo sentivo. E dipende sempre dalla ricezione. Sì, stazione fissa. È 4:30 il segnale, come ti mai? Ma se l'altro giorno avanti usciva bene, proprio la radio forte, boh. Adesso quel baracchino che vuole regolato, regola di quel baracchino lì, così una sagusia e basta. Quello che c'ha, che esce forte, ne ha uno che esce bene. Ma tu avanti. Eia, però forse mi sente lui. No, arriva Santiago 4 qua, non lo so se tu lo senti, arriva qua Santiago 4, fatelo conto, ma ne ha uno di apparecchio che esce bene, va bene però, si sente proprio forte, solo che ogni tanto lo tocca perché di quelli digitali e lui non li sa usare, capito, si è impappito. E adesso Franco le lo mette a posto, perché c'ha dei parametri da rispettare, le lo mette sui parametri giusti, invece è forte, ma forte bene. E allora chi non lo apprende? Perché mi sa che uno ce l'ha dentro il camper e l'altro ce l'ha dentro casa, capito? A volte lui, praticamente, quello che c'ha in casa ce l'ha proprio in veranda, c'ha freddo, allora se ne va nell'altro, capito? Gamba. Carlo, anche domani sei in festa. Carlo? Mi già. Ho detto domani pure sei a riposo. Allora, domani sì, è primo febbraio, sì, domani pure. Domani sono casalingo. No. Eia? No. Che chiedi a lui come lavora l'aeroporto. No, non c'è l'executive. All'aeroporto la sicurezza è tutta interna. Qui, Manuele, noi facciamo i controlli di sicurezza alle persone, ai bagagli a mano, ai bagagli da stiva, la videosorveglianza, il pattugliamento, e tutto quanto noi. Istituti di vigilanza ad Alghero non ce ne sono. C'è stato un periodo che c'era un istituto di vigilanza, ma faceva solo il varco carraio, ma non lo fa più perché facciamo tutto noi adesso. In aeroporto non c'è mai stata nessuna guardia armata. Il servizio non si può fare armati perché c'è la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e ci sono loro armati. Dove c'è moltitudine di persone, il prefetto non vuole che si autorizzino l'uso delle armi. Ma quando sei fuori ce l'hai l'arma? Carlo, quando vai fuori c'è l'arma? Solo quando facciamo la notte, che facciamo il pattugliamento, allora lì sì è armati perché facciamo tutto il perimetro, eccetera, solo in quell'occasione, però i servizi interni siamo sempre disarmati, non ne abbiamo, non ne possiamo portare là dentro, capito? Purtroppo è così, ma è meglio pure perché ce n'è di gente squilibrata in giro e è meglio, meno ce ne sono di armi, circolazione meglio è. Vabbè, dove serve ce l'avete, non è portierato come pensi tu, Manuel. Loro ce l'hanno l'arma, però la usano solo quando fanno l'esterno, capito? Ho capito, sì, noi addirittura siamo autorizzati perché abbiamo porto d'armi, abbiamo anche il decreto di guardie giurate, noi abbiamo il decreto, no, prefettizio, e quindi facciamo il trasporto delle armi dall'aeromobile per l'aeromobile, perché c'è gente che trasporta anche armi in aereo, ci sono privati, chi trasporta valori, oppure ci sono quelli che fanno le Olimpiadi e che quindi si portano fucili per tirapiattello, eccetera, fanno competizioni, quindi viaggiano con le armi. Le armi le prendiamo noi dall'ufficio di polizia e le portiamo sotto bordo noi, e così quando arrivano lo stesso. Per fare quel servizio lì devi essere col porto d'armi e devi avere anche il decreto di guardia giurata, capito? Perché fai il servizio di guardia giurata attualmente. 5-10? Capito, avanti, chi c'era? Ciao Carlo, buonasera. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao anche Antonio. Buonasera Roberto Quadratto. Ciao Gianni, altri ce n'è? Anche tutti vi ascolto, Tatuscia. No, noi eravamo già, se tu che sei arrivato adesso, noi ce l'avamo già in ruolo. Bene, ti arrivo, rompe da quale parte? 9+15. Ciao, bene, va. E cos'è combinato? Ma cosa? No, sei anche forte del radio, più forte dell'altra volta. Più forzaccio. No, bella la modulazione, il segnale è buono, per cui cosa vuoi di più dalla vita? Un amaro, com'è? Un amaro lucano. Ma vabbè, è zero bimbo ce l'ha regge, però sto fresco. Che cosa? Ho detto, vabbè, che tu sappia, il mercatino dell'usato lo stanno ancora facendo in Piazza d'Italia. Sì, c'è la domenica, tu ricordati sempre, l'ultima domenica del mese è in Piazza d'Italia, e la prima del mese all'emiciclo, stranamente, questi intelligentoni. Quindi domani, la prima domenica, ha detto, no, allora no. Comunque, Emanuele, sentite, siccome c'è Emanuele che è appassionato di radio antiche, gli ho detto di andare a vedere se c'era qualcuna lì. A proposito, a chi li posso dare? C'ho dei soldi antichi, a chi li posso dare? Cosa c'hai? Dei soldi antichi. E cioè che sono, di monete o carte, in carta? Carta. Dipende dalle condizioni, devono essere perfetti per darli. Che cosa sono, le monete italiane o straniere? Italiane. E cosa c'hai di soldi? 2000 lire, le cose. Adesso non mi ricordo più. Diciamo quelle dagli anni 70 in giù qualcosina riesce a ricavarne, le 1000 lire, le 5000, quelle non è che valgono più di tanto, ti daranno 2-3 euro tipo, a quel punto te le tieni, però se c'hai le 100.000 lire, quelle degli anni, quelle di coso, di Giuseppe Verdi degli anni 60-70, le 10.000 lire lo stesso, qualcosina ti possono dare, ma io consiglio sempre a tenerle, si mettono in una bustina trasparente in modo per l'aria che siano un po' coso, conservate bene tra 10, 20, 30 anni saranno sempre più rare, per cui c'è sempre qualcosina di più, non perdono mai valore, sanno solo da guadagnare. Mio padre ce ne aveva francesi, però ci aveva uno scritto per tenerle, aveva uno scritto che autorizzava la detenzione, eccetera, eccetera. Chi posso andare? Ma aspetta, qua a Sassari ce n'era uno vicino a Piazza Tola, però aspetta, devi cercare su internet, scrivi numismatica su internet, scrivi numismatica a Sassari e vedi un pochettino. Però ti ripeto, Anton, non pensare che c'hai tutto questo valore, perché sono talmente comuni come le monete, come quantità prodotta. Poi devono essere in perfettissime condizioni, non, possibilmente non usate. Ma ci sono le monete che valgono un sacco di soldi, le 10 lire, le 50 lire, che valgono anche 5.000 euro. Assolutamente, quelle delle caramelle possono valere anche 2.000 euro, quelle che erano al contrario, le prestampe che hanno fatto 100 per errore, quelle sì, ma i soldi normalmente che sono in grande circolazione, non pensare che valgano tanto. Per cui molta gente, come dicevo, le 500 lire della gente, ma... E me la polizia arrestarlo sta andando. Ma lo hai sentito? Adesso il primo c'è all'emiciclo, e la prima domenica del mese, e poi l'ultima domenica del mese invece è Piazza d'Italia. C'era praticamente ieri, non era domenica, no, avanti. E non te l'ho detto io che c'era, te l'ho detto. Tu mi hai detto, ma sei sicuro? Io ho detto, io so che c'è, poi domani è uno, però non lo so se è la prima domenica del mese oppure se è il primo, adesso glielo chiediamo a Roberto perché non ho capito bene. Roberto ha detto che l'ultima domenica del mese in Piazza d'Italia e la prima domenica del mese in all'emiciclo. Allora, la prossima domenica che viene devi andare all'emiciclo. Domenica 5 febbraio dovrebbe essere lì all'emiciclo, buono a sapersi perché io ero convinto fosse solo una volta al mese, quindi l'ultima domenica invece la fanno anche la prima del mese, raddoppiano, diciamo, cambiando la piazza, dai. E Roberto ne sa di sicuro perché è un amatore di radio antiche, di queste cose qua, le piacciono molto. Perché a me già mi piace vedere cose oggettistica varie, antica, già sono curioso io, se buono a sapersi perché magari se capita che sono libero di mattina ci vado, immagino sia solo la mattina tanto, domenica 5 per esempio sono libero e quindi magari se mi ricordo ci faccio un salto. Sì, c'è tutto, c'è solo macchine fotografiche a pozzetto, cosa ti posso dire, chiavi particolari, le chiavi proprio di casa, quelle particolari sembrano le chiavi del paradiso per intenderci, coltelli, macchinette di quelle, di quei modellini antichi, cavolo, da far ridere. Poi ci sono orologi, dischi di tutti i tipi. Io ne ho acquistato parecchi dischi. Sono rientrato. Sì, a Roberto. Siccome c'è un amatore qua di radio antiche, quindi per quello te l'ho fatto dire, così lo sentiva. Allora, radio antiche no, per vantarmi ne avrò una quarantina, anche di più. Tra quelle radio, diciamo, cosiddetta mobiletto, più le autoradio antiche, radio, diciamo, radio di carri armati, radio di elicotteri, di tutto e di più. C'è una marea di radio, però me ne voglio un po' di suore perché ne ho troppe e non so cosa mettere, dove mettere, anzi lo so, però è un peccato tenerle così. Sto valutando di metterle in un locale che c'ho e fare una specie di tipo mini museo, dai, siamo alle moto e tutte le cose che c'ho, però ci sto pensando. Se ce n'è qualcuno in più, la Manuele le stava cercando di radio. Ma che radio sta cercando, per curiosità? Manuele, vai. E Mercatini già le trovi, però il discorso, se tu vuoi, non so se lui se ne intenda, per il valore, perché secondo chi capita ti sparano delle cifre e poi la radio non vale nulla. Perché una radio può valere dai 50 euro sino a qualche centinaio di euro e anche oltre, dipende dal periodo e dalla rarità della radio. Diciamo le radio un po' me ne intendo, perché sono una vita che le sto collezionando, però ho finito, basta, non la compro più perché qualcuno me l'hanno regalata di recente, però preferisco adesso non comprarle, c'ho altre cose per l'altezza, se no non esci più, quando entri nel giro di cose, io sono collezionista di tutto di più, dagli orologi, fumetti, radio e apparecchiature varie di tutti i generi, per cui hi-fi eccetera, non esci più con quel discorso lì. Se c'è Emanuele, cosa vuoi sapere? Dimmi tutto Emanuele, qua magari qualche informazione te la posso dare. Non c'è più. Chi è rimasto qua? Gianni, Antonio ci sei? Sta parlando. Chi sta parlando? Emanuele, aspetta. Allora, sì, io lo sento Robè, basta, ma gli arriva. Tanto lui sta cercando quella radio a transistor, capito? Quelle vecchie. Allora, transistor, a valvole. A valvole e a transistor. A valvole e a transistor. Allora, i transistor sono usciti a fine anni 60, diciamo, non è niente di raro, a meno che non sia un particolare, qualche radio strana, con qualche forma, diciamo, particolare di moderna alienato, cose del genere. Per cui devi ricercare le radio a valvole. Poi le radio a valvole bisogna stare attenti, perché se tutti si fanno prendere la bramusia di accendere, le bruci immediatamente, bisogna accenderle piano piano, con un variac, in modo che gli dà la tensione piano piano e si stabilizza, se no partono subito, esplodono i condensatori, le zampe la radio da buio perché si brucia il trasformatore. Però io Emanuele non lo sento, c'ho il QRM a 7, non riesco a sentirlo. Ti stava parlando Roberto, ti stava rispondendo, lui ti sente ma forse non da te non ci arriva. No, niente, sento che parla però non capisco niente, difatemi la ponte. Ha detto che praticamente la radio è accesa quando si illumina la spia verde. La radio è accesa quando si illumina la spia verde, l'occhio magico, vabbè, quelle sono più recenti, quelle con l'occhio magico, non ho capito cosa vuol dire, fammelo spiegare. Che? Non ho capito, la radio è accesa quando si illumina l'occhio magico, cioè? Diventa tutto verde, capito, allora è pronta per l'accensione che deve scaldare piano piano, forse voleva dire quello. No, ma non è così Emanuele, mi dispiace di te. L'occhio magico serve per sintonizzare, quando è bella accesa è sintonizzato bene la stazione, è una specie di analizzatore di segnale, da solo quello funziona, non c'entra niente, addirittura si consumano col tempo tendono a esaurirsi, quell'occhio magico famoso che tra l'altro è una valvola, che ha un colore particolare, normalmente verde, quando c'è sintonizzato bene, che c'è il pieno segnale della stazione, diventa più luminoso e basta, però non c'entra niente, quando tu alimenti una radio a 220 che è spenta da 20 anni, 30 anni, sono ancora condensatori ad olio, in carta bagnati d'olio, quando tu gli dai la tensione nell'immediato, gli dai 220 volt, questi esplodono e vedi tutto il fumo e piano piano il trasformatore si scalda e si scioglie, nel senso diventa, si brucia e si rampa il tutto, bisogna accenderla gradatamente, per dire lasci un'ora a 80 volt, poi ne porti a 90, poi a 100, altre due ore, piano piano, gradatamente, senza dargli mai la tensione tutta in una volta, soprattutto queste radio vecchie con i condensatori a olio, se no ce la butti via quella radio, perché sistemare e trovare quei condensatori è un problema, ma anche non glieli metti moderni, però una volta che hai bruciato il trasformatore, riavvolgerlo, mi è capitato a me più di una volta, ci vogliono un sacco di soldi e non ne vale la candela, ma anche non c'è una radio prestigiosa di altissimo pregio. Fatemi da ponte, se non ha capito, e poi mi riferite a quello che dice. Ma lui senti? Vabbè, comunque mettetevi d'accordo, se ce n'è qualcuno che ti interessa di quelle che sta vendendo. Ma me lo metto a trasmettere Emanuele, io prima lo sentivo, adesso non lo so, in macchina. No, Santa Maria di Pisa, c'è un'antenna dentro casa, Roberto. C'è un'antenna di macchina dentro casa con la base magnetica. Purtroppo io qua c'ho il QRM a 7, lo sento in mezzo al QRM, poi si porta un fischio appresso, ma non riesco a decifrare quello che dice. Comunque, ma radio, ai mercatini le trovi di tutti i prezzi, dai 25 euro in su, naturalmente devi vedere, a meno che non ti occorre come oggetto la collezione non funzionante, ma le trovi tantissime, in realtà Italia qualche volta le portano, se no puoi andare anche da Coso, da Michele, sopra la Conad di Coso, di Piazza Lessegni, in via Graci, c'è il Vintage, c'è Michele, un amico, vai da lui qualcosa, c'ha lui, qualche volta le portano a Portobello, dipende, però di lì ne approfittano, perché magari ti sparano una cifra esagerata per una radio che costa, che vale 80 euro. diciamo, come ti ripeto, la radio parte dai 25 euro se c'è la carcassa non funzionante, se no arriva a qualche centinaio di euro, però bisogna conoscere le radio, perché se sono di grande marca tipo Philips, Grundig e quelle lì, ne hanno fatto talmente tante, per cui il valore ridò. Però se c'hai a disposizione una Lucio Bacchini o una radio rurale, una radio Balilla, quelle lì pagano un pochettino di più perché sono un po' più rare, sono che hanno fatto il periodo del duce e il fascio. Poi Emanuele, se tu ti vuoi fare gli occhi vai a Itri, c'è il museo della radio dove ce ne sono qualche centinaio di radio, c'è l'Antonio Solinas, lo gestisce lui insieme al gruppo Coros di Itri, che è un radioamatore, facci, ed è una cosa veramente carina, c'è la storia della radio, dal telegrafo sino arrivare alle radio, le prime radio a transistor degli anni 60, c'è di tutto di più. Ok, riferite se non ha capito, se no lo ditelo. Eccolo. Allora Manuel, è sopra dove c'è la Conad, sopra il centro commerciale, c'è un negozio di cose vintage, diciamo che ci sono fumetti, vari oggettistiche, cose del genere, e può darsi che abbia anche qualche radio, a volte ce li ha, capito? E si trova dove c'è il centro commerciale di via Gramsci, dove c'è la Conad, l'OVS, sopra al piano superiore dove c'è il bar, a fianco al bar rimane. Esatto. Ma chi è quel tipo alto? No, Michele non è alto, è bassottino, dai, normale, altezza mediamente sarda, diciamo. Tu stai dicendo quello che ce l'aveva, prima in via Purigono, eccetera, eccetera. Ciao Fra. Ma ce n'è anche uno in coso, in via Cesare Battisti, c'è più di uno di questi, Gianfranco ha chiuso, ce l'ha avuto anche in coso, dove c'era Salvatore Maestrale di lì, in via Porto Torre, poi ce n'è un altro negozio che ce n'è in via Porto Torre sulla sinistra, c'è coso, Adamo, lo stesso nome, li conosco tutti quanti, sono tutti amici. Cappa, riprendi Antonio, vai. Avanti il breaker. Attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Vai Cicopone, Forcetto. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Manuele Cingomino, ho detto Forcellino. Ciao Tonino. Dai, quando me lo dice così, mi fai tutto quanto esplodorare. Sembriamo un satellistri. Sono moderato. Cosa Roberto? Cosa Tonino? Ma c'era anche Roberto Quadrato. Sì. Roberto, sì sì, buonasera. Non forse era al telefono, perché ho sentito uno squillo della sua sirena ambulanza. Era fatto uno squillo. E beh, non parlate più, eh? Enzio Radio. Ehi, avanti Tonino. Oh, mamma mia. Io l'ho già fatta fisioterapia, ne ho fatto due mesi, mi basta. Anto, cosa stai facendo? All'ospedale. Ah, all'ospedale civile. Io l'ho fatto al Conti. Volevo fare lì, adesso mi chiameranno. Sono rientrato, scusatemi, dentro missione a gamba tesa. Ciao Roberto. Già ci sì, non è un piccolo controllo di radio, come ti sta arrivando la tua station? Avete parlato in due Tony, 9+20, radio fortissima, burudruppo. No, va bene comunque, pulita la radio. Sì, così va benissimo. Senta l'eco, ma c'è avuto l'eco tu o ti ha parlato qualcuno? No, no, io ho messo l'eco poco fa. Non è normale, senza niente. Adesso è senza eco. Qui, se metto l'eco, è così, capito? Adesso l'ho tolto. No, così è la tua voce, Tony, perfetta, no? Tu canuda, come piace a me. L'eco ti sporca la modulazione, così è perfetta. Cap. Dunque, è una bella rete, ho preso un microfono precompreso, no? Allora, perfetta, da parte mia ti do ottimi riferimenti, va benissimo, il segnale è buono, 9,20 lo superi anche con i picchi di leggermente. Aspetta un secondo, dimmi adesso come ti arrivo. Allora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Con i piccoli li superi, 9,20 però stavi leggermente saturando. Ok, dai, lascia così. Scusate agli amici che l'ho fatto un piccolo particcio. Tony, ti abbassa la radio. Lo so, lo so. Infatti ho abbassato il potenziometro. Sì. E vabbè, comunque già va bene, con i passaggi che hai fatto prima vanno a grande. confermami una cosa, il magazzino delle cose antiche, l'ultima domenica del mese in Piazza d'Italia e la prima domenica del mese è all'emiciclo, così? Confermato, sbagliatissimo, pure così, purtroppo una scelta del comune che non ne si è capito, perché tutti gli amici ne parliamo sempre, è una cosa illogica, in Piazza d'Italia doveva tutta la gente a passeggiare, soprattutto adesso che c'è il periodo carnevale, le maschere tutte lo fanno all'emiciclo che non lo sa nessuno, vanno nei quattro gatti perché la gente non lo sa, e purtroppo l'ha deciso così il sindaco, non si capisce, a Cagliari ogni domenica, non ogni ultima o prima domenica, ce ne sono quattro di mercatini, c'è quello di Sant'Elia che è una cosa spaventosa, più grande di Piazza d'Italia, tutti i parcheggi dello stadio dedicati a tutto, puoi trovare per dire dalla pistola all'aeroplano, per fare un esempio che non conta niente, che non dice niente, c'è di tutto e di più, tipo Porta Portese, c'è un sacco di zingari che portano mece, molte volte anche rubata, questo bisogna dirlo, però c'è di tutto e di più, poi ne fanno uno nella scalinata del Carmine, un altro due, non mi ricordo dove, e le fanno tutte le domeniche, a Sassari che c'è gente volenterosa che ha voglia di fare qualcosa, non si sa per quale motivo gli hanno permesso soltanto queste giornate qui, tra l'altro in due posti, uno va bene e l'altro no, ogni tanto salta perché c'è brutto tempo e non gli permettono di recuperarlo, anziché dare possibilità alla gente di vedere qualcosa di diverso, chissà per quale motivo l'amministrazione non lo permette. Ok, a chi tocca avanti? Ma mi sembra comunque Robe che all'emiciclo non ci sia più di tanto, non espongono più di tanto, Piazza d'Italia è quello più grosso, all'emiciclo mettono quattro bancarelle così in croce, non si impegnano molto. Allora sono una trentina queste persone che fanno parte, perché è un gruppo, tra l'altro pagano, tenete presente che si paga per occupare il suolo pubblico, stranamente non hanno compreso, anziché dare un incentivo che stai valorizzando la roba storica eccetera, dovrebbero pagare le amministrazioni, in questo caso devono pagare loro il posto, non ti puoi spostare, per dire se Piazza d'Italia ci sono anche dei posti liberi, no, tu devi andare in quel posto che ti hanno segnato, ci sono i vigili urbani che fanno il giro, si fanno sempre i controlli, le autorizzazioni, io sono andato domenica scorsa, ho comprato qualcosina che ho trovato che mi interessava, però ce n'erano più, di meno del solito, infatti ho chiesto, c'è sempre, addirittura viene quello da Burtigali, questo tipo, non so se l'avete visto, quello con la barba lunga, un uomo anziano, capelli bianchi, che sembra, per dire, Giuseppe Verdi, una cosa del genere, un uomo non è grande, con i baffoni, quello lì viene addirittura a Portigali, viene però quello della Piazza d'Italia, fa diverse manifestazioni anche a Cagliari qualche volta, la fanno a Cosa, a Tramazza, a Torre Grande, vabbè, per Torre Grande più per le auto e per le moto, dove fanno ricambi di auto e moto, ci vado, lo fanno verso giugno normalmente, fine maggio, inizio di giugno, più o meno li conosco tutti perché ci vado, visto che sono appassionato, però la cosa ridicola, nel mio ciclo fanno più che altro questi di Sassari, qualcuno di qualche paese tipo il Medio, cose così, ma se arrivano a 10 bancarelle, 12, 13 è troppo, se normalmente ce ne sono 7, 8, non di più. Sì, ma infatti no, non c'è molta gente. In Piazza d'Italia ho visto qualcosa di interessante, ho visto orologi belli, ne hanno anche comprato, davanti a me hanno comprato un orologio a un ragazzo. No, ma c'è di tutto, ti ripeto, molte volte devi essere, capire anche l'oggetto che ti interessa, quanto vale, perché la gente così va per comprare senza scrupolo, poi magari quella cosa non costa niente, cioè non vale quello che l'hai pagato, bisogna avere anche un po', essere informati del valore delle cose, perché uno dice sì, mi compro quella radio, bella, che bella, Philips, e poi va a controllare il valore, vale 50 euro, magari quello te ne chiede 100, bisogna saper trattare sempre, a me mi conosco molte volte, infatti mi ha detto, mi stavano di domenica quando sono andato, non per presunzione, ha detto guarda, avevo dato a un altro, mi ha offerto di più quanto mi ha detto, però preferisco dal latte perché mi ha detto, so che lo apprezzi diversamente, perché molte volte anche a me è capitato gente che me l'ha fregata, la roba che mi interessava, un ritorno, quello Caimano ha fatto il furbo e l'ha dato a un altro per 10 euro in più, però siccome lo sanno, dico guarda, se lo fai più io non ci vengo più da te, e per cui molte volte cercano di trattarmi in modo migliore della gente normale, là, di quelli che vanno solo a farsi la passione, però c'è di tutto, orologi, oggetti particolari, pentolame, cos'è che non c'erano? Aratri, coltelli, spade, libri ce ne sono tutti, ne ho preso un paio di cose sulla storia di Sassari, del Sassari, della Sardegna in questo caso, bellini, cioè uno ce l'avevo già, ma siccome è un po' raro me lo sono comprato. E poi ho preso, anche se non è la passione mia, due coltelli, una patadese piccolina e un altro coltello di quelli tipo cacciatore, tipo Rambo. Però c'è mio cognato che lui è appassionato, lo do a lui, lo regalo a lui. A chi tocca avanti? Chi c'è? Carlo mi sembra, poi Antonio, Gianni, Tonino e Buco, che chi è rimasto? Sì, vabbè, io ero rimasto a quando ancora lo facevano in Piazza Santa Caterina, è da allora che non ci vado, perché anche a me piacciono così i mercatini delle cose antiche, eccetera. Buono a sapersi che lo stanno facendo, così magari qualche domenica mattina, se non so cosa fare, me ne esco a vederlo, l'ultima del mese o la prima del mese, dai. E vai Antonio. Stavo dicendo che a Sassari, che c'è Zinda, qui sono randaggio, per carità, guarda, non capisce niente, non capisce. Ma non è il sindaco di l'amministrazione, l'assessore alla cultura, ci sono tante cose. E ho preso anche dei baracchini l'altra volta, c'era un baracchino nuovo, ma bello, antico, degli anni 70, dieci euro, portatelo via, funziona pure, l'ho provato, col microfono suo originale. Molte volte trovi cose così, a cosa? A Riccardino li avevo fatto prendere, da Michele, quello gli ha fatto prendere, c'era un amplificatore, bello, un amplificatore un 150 watt o 250, adesso mi ricordo, ce l'ha forse ancora, poi gli ha fatto prendere altri due baracchini, uno veramente bello, c'è altri logisti a prezzo quasi a regalo. Allora ci devo passare. Oh, non è detto che lo trovi sempre, però può capitare. Sanno a me, io quando vado di lì, siccome ho comprato tante volte, tante cose, sanno le mie cose, come quando ti capitano queste cose, mettimi da parte, appena arriva, c'hanno anche il mio numero di telefono, mi dico, beh, guarda che è entrato questo, possa, portamelo, passamelo, pure dico, vedo dove sei, venga a prendere. Ho preso un po' di rumino, qualcosa di interessante, anche cose magari non valgono niente, però per le mie passioni valgono tanto. Ok. Chi tocca, Torino ci sei? Sempre ci sono, sempre ascolto. Andrà bene, sì, vado capito, un mercatino dai. Questo mercatino a quanto pare lo fanno in Piazza Italia, così quando, se ho capito bene, vabbè. Allora lo fanno l'ultima domenica del mese, tempo permettendo, in Piazza d'Italia, e la prima, che sarebbe domenica prossima, lo fanno all'emiciclo, sempre tempo permettendo, perché molte volte se piove non ne fanno neanche, loro sanno già dal giorno prima le previsioni, infatti molte volte lo so benissimo che non lo fanno loro, e mentre quello di Cagliari lo fanno anche se piove, perché sono dentro i furgoni che vengono a questa Roma, molte volte sono zingari, lo tengono nei furgoni, come quello di Torre Grande, vai di lì anche se piove, si mettono a tenda, una cosa, e vendono comunque. Però già ce ne sono negozietti vintage a Sassari, c'è quello in via Cesare Battisti, quello Gianfranco ha chiuso, poi c'è quello di Coso, di Adamo, che è Porto Torres, è un po' più selezionata la roba, e poi molte volte da Portobello e dal mercatino dei Pucci qualche volta puoi trovare qualche fesseria magari vintage o qualche cosa di qualcuno se ne vuole disfare. Poi c'era quello vicino alla piazzetta di quella napoletana, anche lì qualche volta si trova qualcosa, qualche baracchino se capita, dipende da cosa vuole uno, impianti di amplificazioni, mixer, casse. Io avevo preso dal mercatino dei Pucci il 1200, il Technics 1200, i piatti della discoteca e un mixer, poi mi aveva dato che c'era di lì in mezzo, me l'ha dato perché l'ha compreso. Ma se conosci il valore delle cose, molte volte puoi trovare qualcosa di interessante. Di nuovo a chi tocca. Ecco, buonasera, cari portieri, a questo sono tornato a tutti, ciao Roberto, ciao Gianni, e poi non so chi altro ci sia. Ciao Franchino. C'è Tonino, c'è Emanuele, eccetera eccetera. Carlo, io. Avanti, dove sei, California? Sempre a casa di Giovanni? Ah, sto salendo, dai, gli ho fatto alcune cosette che non c'erano, alcune cosette non stavano funzionando. Ciao Tonino, mi ascolti, buonasera. 9:10 e 5 questa parte. Però sono arrabbiato con te, non è salito il cane. Il cane? E quale cane è salto? Ma il cane adesso stasera è giù. ho sentito la fare quella cosetta e l'ho messo nel calduccio, ho capito. No, ce l'ho a casa il cane, tu. Ah, a casa, qua Sassari. Poi l'ho portato a casa, dai, l'ho lavata e me l'ho portato giù, non mi interessa. Poi domani mattina procederà a prendere la Lucia che arriva alle 2:30, quindi ci abbiamo il tempo di prendere il caffè. Ok, d'accordo, allora sono contento per il cane, dai, così lo vedo. Io a me piacciono troppo i cani. Andrà bene. Ok, Antonio, riprendi. Saluto Franco, ciao Franco, mi hai sentito? Purtroppo Emanuele io non lo sento, fatemi da ponte voi. Perché Emanuele è un porcellino, Emanuele ogni tanto apre il frigorifero perché la penna ce l'ha attaccata al frigo, si mette a mangiare e non risponde. Adesso si è abbassato il cuore, ma ce l'ha sì, magari se parla lo sento. Attenzione Emanuele. Avanti già. E deve essere si assentata a affettare salsiccia e formaggio. Beh, sicuramente. Franco California, dove sei arrivato? Non ti sente Arturo. Franco. Non mi ha risposto. Non ha risposto neanche a te già. Attenzione, California, Franco, ci sei. Cos'è? La cosa della polizia. Ah, che c'ha questo bip della polizia? Avanti, che vuole entrare? Qualcuno sta facendo ascolto, gli è partito. Ma quel bip lì in particolare è una cosa strana. E c'erano la vigile urbana, che? Ma tutti c'erano la vigile urbana, polizia, carabinieri, quello è il coso di servizio. Franco! Ehi, Antoni! Mi ha chiamato Antonio, adesso lo copiavi, avanti Antonio per Franco. Attento Franco, mi copi! Santiago, c'è Radio 5 qua a Plaza Mona, io sto salendo, dai. E a me mi ascolti, Fra. Pio Pio sei qua. Vieni a Radio 5, Robert, ciao, buonasera. E io a Plaza Mona, ti arrivo, Franco. E a voi di arrivare, tutti bene, Santiago 9, 9, 10, 9, 20, di lusso. Ma non ho capito se mi hai ascoltato, Franco, scusa. Ti ascolto bene, 9, 20 a Radio 5, Roberto, se mi stai ascoltando, dai. Sì, tu sei 9, segnale, no, ti ascolto bene. Breco, breco, breco, breco. Avanti giù. Ciao, ci arrivo io a Pantalona. Tagna segnalino. Saluto a tutti quanti ragazzi. Ciao, ciao. Ciao Giova. Hai messo a posto la parità? Sì, sì, regolato, vai, regolato. Ma quello sta mettendo a portante. Qualcuno mette a portante. Sei tu Giovanni, adesso sei tu. Avanti, Roberto, cosa stavi dicendo? E stanno mettendo a portante. Però non ho sentito nulla. Ma lo stanno portando Giovanni, qua su per le 9:10 l'ha portato, un rumore strano, tipo balla laterale. Buh. Sì, hai ragione, mi si era bloccato, non capisco cosa sia successo veramente. Allora, e tu Giovanni, ben sentito comunque, dove ti trovi tu? Certo, pettine, si è bloccato qualcosa nuovamente, si era bloccato. Allora è tu che ero confuso, dai. No problem, ti ascolto bene, 9, quasi 9:10 sei. Invece eri tu, facciamo ti stesso la volta e non la portata. No, se ne ero schiacciato, ma 9:25 qua Giovanni, Radio 5. Mi batte anche a me. Cosa Roberto? E super, quanto ti arrivo io già? E quel segnale lì lo stesso, più o meno. Ma c'era anche Luca nel mondo. Non mi piace, fa succedere. Sono qua Roberto, sono indaffarato con tre computer. Non ha sogno di segnale, due, cosa c'hai tu? Un chilo va. La matrice attaccata, sta lavando la roba. Tu adesso c'è 9 più 40, a parte Carlo c'ha il segnale della paura, poca gente arriva con quel segnale qua. C'hai più 3 PC vicino, gli danno la forza. Allora, ma sono una supposta, vedi come funziona. Più forte Luca Riello, cambio, vi ascolti? Ehi, Fra, a voi, ti ascolto. Rientrando alla Sassari, sai? Allora, io sono località qua, la rotonda, e sto direzione verso Sassari, Ti ascoltate, sì? Sì, ti ascolto. C'ho un po' di QRM, a due, quella ti tiro fuori, Poco fa ho fatto certi passaggi, non ti sentivo bene. Ma dentro la d'ombra, c'è la parte mia, torna d'ombra. Va bene, ma Carlo c'è ancora, ci sei Carlo? Sempre qua Luca, già ci sono, è che siamo parecchi, quindi sto ascoltando anche io, cioè col computer acceso, però già sono qua. E niente, prima stavamo parlando di cose antiche, insomma, dei mercatini che fanno a fine mese, inizio mese, perché io c'ho un sacco di cose da me, mi vorrei disfare, quindi se trovo qualcuno che se le prende anche tutti insieme, le faccio fuori volentieri. C'ho tipo una cinquantina di chili di rame, non so cosa farmene, tipo vecchi oggetti, anche come si chiamano, braccieri di rame, cose così, li ho tutti messi dentro una scatola, inscatolati, e mi portano via un sacco di spazio in garage, quindi se trovo qualcuno li faccio fuori. Carlo, parliamo noi due. Carlo, vabbè, lo puoi vendere a Marcello, cosa trovo, vendi lì. Carlo, ma lo vuoi fare fuori a regalo o a comprartelo? No, io se riesco, ho talmente tante cose, ci voglio ricavare qualcosa. È giusto. Allora, a me mi hai quotato, vai da Marcello e te lo compra, che è quello più onesto, diciamo, prendendo la roba. Se te ne vuoi disfare di Ferrari, già ce l'abbiamo qualche amico che lui la ritira e se lo vende lui. Ah, comunque va a me, ok, fai così, vai da Marcello. Qualche altro oggetto, se mi interessa, ne parliamo domani, te lo prendo qualcosa io, dai. Sì, io praticamente ho tante di quelle cose, ho trovato anche un cassone di quelli sardi, cassapanca, tutta piena di bei tappeti fatti a mano, ben conservati, colorati. Poi se già c'ho le foto anche sul cellulare, però sono, diciamo, cose che non usiamo, quelli vanno bene in qualche villa, chi si arreda magari con cose classiche stile sardo, capito, nelle ville in Costa Smeralda, ma tappeti enormi, grandi, che sono 5 metri per 4, tutti fatti col telaio a mano, ma fatture di 40-50 anni fa, capito? Ma forse c'era qualcuno sotto che voleva cercare di entrare, ma io sentivo un piccolo bisbiglio, ma talmente piccolo che non faceva niente. Tu lo sentivi, Roberto? No, no, qua arriva 9,50, qua non lo so. Ma a me mi arriva 9,20, Carlo, 9,25. Però è totalmente un piccolo suono sottofondo, ma piccolissimo, non dava fastidio per niente, nel senso che forse qualcuno voleva entrare. Ci sono sopra. Cappa la stufetta, come sto arrivando, cappa! Ma sta bene in guaria. Sempre, sì, cappa. Ma dove sei, fra? Già, quando era rotto dare più di 9, adesso sei 9 più 15. Qua adesso sono sulla solita platano, mi avvicina a tutto, raggio. 9 più 15, ma ti sta aiutando un bel. Aiutando, c'è un piccolo amplificatore da 2 watt, dai, uno perché sì. Da 200 watt, minimo, per arrivare così forte. Cazzo, ogni segnale, la platano, la rotonda, 9 più 5 eri, mi sta per arrivando, adesso sei 9 e 15. Una stufetta da 5 parti. Gianni, non si dice le cose così. Cardano per 25 occhi. Guarda adesso in sesta posizione com'è. Tony, sesta posizione, non sto arrivando da te. Sei 9.30 qua. Attenzione, attenzione, Antonio, questo ti fa partire lo smitter. Ma chi è che sta sovravolando a Torino? Avanti. Grueo già. Siamo poco, dai. Cosa sta parlando, Antonio? Avanti che vuole entrare? Sì. Chi è che mi sta sopravvolando? Ecco, mi ascolti a me, guarda se passo Torino. Guarda se passo adesso. No, non era Franco, adesso sì che te l'ha un po' scavalcato, ma poco fa stai parlando e ti schiacciavano. Chi è avanti che vuole entrare? Franco, Io so, stavo provando, dai. Sesta posizione, a ver se sto scendo bene ancora. Dai, mi ascoltate, sì. Mamma mia, bene in pari, attenzione. Già ti ascoltiamo, già ti ascoltiamo, ci ne stai abusando, Tu no, aspetta ancora, non posso andare, sono in sesto, ma chi è che sta sovramodulando quando partate voi? C'è qualcuno che arriva a 9.30 a me. Ma io so. Quando avete parlato Tonino e Natalino, vi hanno schiacciato di brutto tutti e due. Natalino, chiste grossa, scopriamo chi è colpevole. Fatti un attimo di bianco, troppo assaggerato, se no si comprende lui. Ma meno siamo, Bobo! Abbassate la potenza, dai, uscite con 2 watt, come sto facendo io. E allora? Due watt laggiù io, e 2, 4 ne ho io di watt, ma io sono sincero, però. L'antenna è gomma, capito? Natalia, abbassa il televisore, ti senti più il televisore che tu. Comunque a modulare a me e a Franco più che Luca non posso, che era più forte, non ve ne lascio. No, no, io non sto poco parlando, sto guardando il computer, Tony. Non sto poco parlando, beh, Roberto gli arrivo 9.40, no, non 9.30, ho già detto, boh. Ha detto che ci ha schiacciato il brutto. Non ti arrivo io, 9.40 hai detto, così è. Posso un attimino, allora non è né Franco né tu né nessuno, ha schiacciato a tutti, 9.30, come parlate vi ammazza, perché Franco è 9.20, questo è 9.30, solo Luca passa qua, Luca è caro naturalmente. E io quanto ti arrivo, Robè? No, ma... 9.25, ti ha dato un colpo importante e ti ha annullato Natalia. A vedere adesso, 9.30, quello è Luca, quel drogato cuocuomane. Sai cosa, io non sto manco parlando, cazzo. Sta controllando il computer, sta provando per internet, per cellulare, con lo fisso, so che siamo a posto, una bombetta, va bene. Tratta lì, io ho un PC per te se ti interessa, con processore i5, fammi sapere, ciao. Dipende da quanto vuole. Che spiccolino da tagliare dopo, nuovo, nuovo, nuovo, è un mio amico, Ah, se glielo dico, te l'ho dato da completo, ti dà tastiera, mouse, monitor, vediamo, siete in due adesso, se no adesso glielo chiedo quanto vuole, è nuovo, nuovo, era un po' lento perché c'era una roba sua, documenti, insomma lui se li ha presi nuovi, no? Perché ci ha preso, come si chiama, le scrivanie nuove, va, lasciare questi PC, anche se il PC è nuovo, poi si è preso il computer nuovo con lo schermo grande. Adesso glielo accendo, vediamo un po' cosa mi dice. Comunque, Romè, ho lamentato leggermente la parte tua. Allora, ve lo ripeto, allora, tutti quanti, a tranne Luca, come schiaccia questo qua, la schiaccia a tutti, 9 più 30. E a Luca gli stava dando un po' di fastidio, però passava di brutto. Franco, vabbè, arrivava a 9.20, Tonino 9.20, 9.25, coso, vi schiacciava di brutto. Sì, l'importante, non parlando, non so chi sia, avanti che vuole entrare comunque. Tu arrivi 9.20. Ciao, signor G. Ciao Claudio. Ma io dico una cosa, Robè, non c'è mai nessuno. Una volta che entra qualcuno mettono la portante, non ho parole. Ma qualche troppata. A me si rabbia luce, se non passo mi interessa una persona, o Luca o Gianni, chi si sia, lo telefono faccio prima. Ciao Claudio, da Muro, mi senti? C'è coso, Gavino, un attimino. C'è Gavino, fatelo entrare. Avanti Gavino. Buonasera, buonasera a tutta la ruota, ciao Roberto, ciao Gianni. Ciao Natalino e ciao a tutti che ho preso poco fa. Oh Roberto, ancora la portante? Ma tu lo dici, Gavino? Ciao Gavino, buonasera! Fanno una cosa, però... È basso qua, Gavino. Corrente, scusate se non si fa. Aspetta, non si capisce niente, lasciate parlare, avanti Gavino. Oh Roberto, ho detto che stavo per... Mi abbassa però, mi abbassa un po' la corrente. Attimo il break. Adesso vabbè, sto uscendo dal normale. C'è basso Gavino qua, impossibile. Allora Gavi, ti hanno parlato sopra, ho capito un attimino quello che hai detto, un pezzettino. Se vuoi ripetere, lasciate parlare che non ho, che è entrato, non, se non l'abbiamo neanche salutato. Vai Gavi. Buonasera a tutta la ruota, ho acceso, diciamo, un quarto d'ora fa perché mi è arrivata una cosa oggi. La portante che io, Roberto, questa è forte la portante. Ho attaccato il gruppo e dai, devo vedere un pochino, diciamo, il volume. Che cosa sta parlando? Allora, è Gavino che sta parlando, però se non lo sa che parlare non si capisce. E ti sento bene comunque, io ti ascolto bene, basso di radio, Gavi 6 e 9 il segnale. Però c'è sempre qualcuno che mette portante. Ed è fondo scala qua, un bel forte. No, c'era un break sotto. E io? Non lo so se sono arrivato, però io ho fatto break e forse ho fatto la porta. Sono cambiato il microfono, io non lo uscivo, non avrei, e magari facevo io la porta. Tu sei 9.30 lo stesso, e dove sei blu? Casa, mi ha cambiato il microfono, non mi posso mattinare di questa ragazza. Sto usando la boomerang sul balcone. E sei forte qua, dai. Grazie. Io dai, Bruno! Io sono in vita casa, io sono qua, mi ha portato qua per tanti anni, vabbè, chiedo scusa, a me non so che sto dicendo, grazie. Prego, prego. Sotto che tocca. A porta per te, 9:30, Bruno. E chi è quello? California da questa, buonasera. Con una bumera, mi sembra la fine di chiudere la 9:13, va bene, là. Ma chi è la cosa riserva? No, è Bruno Ragano. Ah, 9:10 Bruno, comunque, mi hai sentito, Roberto, da questa parte. Oggi abbiamo di niente, non ho capito. O 9:10 oggi siamo in 7:08. Fai il giro, Carlo, fai il giro tu e fai ripassare a tutti. Roberto, fa la cortesia, dammi un rapporto adesso. Che sono in movimento. Vabbè, quella zona, la tua zona, dai. Visto che tu sei più distante. 9:20, arriva quasi mai più forte la batola, no, da sta arrivando bene forte. Comunque Roberto, se sei così da rumore non mi piace. Faccia, via qua, datti qua sciate il culo. Ma ci riusci a tappare una per volta, vai tu lì. Ho detto, se ogni sera me la piena mi va troppo bene. Ho sentito un pezzettino che ti hanno sovramodulato, cosa hai detto tu lì? Mica mi penso i calli, mi ammazza la vicenda. Ho detto, se ogni sera c'è tutta questa CB, diciamo questa CB qua, le gare 10, essere l'uomo felice del mondo, posso accedere con allegria e farmi un bel PSO. Va bene, ho capito, c'è tutta questa gente, però c'è qualcuno simpatico che quando parli ti schiaccia. Ciabuc, non lo so. Ok, Gianni, ci sei ancora? Io già ci sono, ma vedo troppo macello. Se non lasciate in bianco troppo assaggiato vi calpestate uno con l'altro. Hanno fatto mille volte osservazione a me, ma voi state facendo la stessa cosa. Non lasciate in bianco troppo assaggiato l'altro, quindi vi calpestate uno con l'altro, si comprende in udere, sto facendo ascolto, là, sono un Rix. Ma rispettiamo, dai, boh. Gianni, se hai capito quello che ho detto io, dillo tu. Ma non fa vedere nessuno. Sono io, almeno sono le resistenze, cazzo, la mia